Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, una buona giornata a tutti. Oggi, anche se sono convinta che molti di voi se lo aspettavano, non parliamo di mercati, rimandiamo questo tema a domani, anche se effettivamente ieri pomeriggio si era creata un po' di turbolenza dopo la decisione di Standard & Poor's appunto di rivedere in negativo il suo outlook, la sua previsione appunto sulle condizioni finanziarie degli Stati Uniti. Ce ne occupiamo domani. Oggi avevamo così in programma di occuparci di vacanze di Pasqua, abbiamo deciso di mantenere inalterato il nostro argomento, anche perché comunque ci stiamo avvicinando a questa scadenza, quindi ci piaceva monitorare un po' quelle che sarebbero state in questo frangente le scelte delle famiglie italiane, quindi accantonare almeno per qualche giorno, visto che ci stiamo avvicinando appunto a questo periodo di festa, tutte le preoccupazioni legate all'economia. Ovviamente parlando di vacanze, non è che poi dobbiamo effettivamente trascurare ancora gli effetti della crisi economica, perché probabilmente le scelte di molte famiglie saranno ancora condizionate da una condizione magari reddituale non soddisfacente, dalla precarietà nel mondo del lavoro, però dobbiamo anche leggere quello che c'è sui giornali in questi giorni. Fra le varie notizie che i giornali riportano, stanno pubblicando diversi osservatori e previsioni sulle imminenti vacanze. È un settore chiave d'altronde per la nostra economia, quindi c'è tutto l'interesse a cercare di capire se si riempiranno o meno gli hotel e i ristoranti nei prossimi giorni. Come si comporteranno le famiglie italiane che vorranno ricavarsi qualche giorno di riposo? Secondo un'indagine di Confesercenti, i vacanzieri per la Pasqua 2011 sono in aumento, sono passati dal 38% dello scorso anno al 47% attuale, e aumenta anche la percentuale di chi pernotterà fuori casa, staranno fuori da 4 a 6 giorni il 29% degli italiani, nel 2010 erano il 25%, mentre il 12% del campione monitorato trascorrerà in vacanza una settimana intera, nel 2010 era l'8%. Ovviamente, come sempre, le associazioni dei consumatori contestano questo dato, dicono che non saranno poi così tante le persone che si sposteranno e ancora meno coloro che pernotteranno fuori per più di 3 notti, complice la crisi i cui effetti perdurano. È complice soprattutto il caro carburante, che farà limitare all'indispensabile anche gli spostamenti, fatta salva la tradizionale gita di Pasquetta, quando a muoversi dovrebbe essere un italiano su 2. Io vi potrei leggere anche tanti altri osservatori, ma in sostanza poi peraltro quello della guerra delle cifre, delle previsioni, è una guerra a cui siamo abituati a Pasqua, a Natale, prima dell'estate, perché ovviamente le associazioni dei consumatori hanno delle prese di posizione sempre piuttosto rigide su questi argomenti. Di fatto, dal mio personale monitoraggio che ho fatto fra gli ospiti che saranno presenti questa mattina a Salva Danaio, che fra un po' vado a presentarvi, ho capito che la grande certezza della nostra trasmissione di questa mattina è che sarà gettonatissima la partenza dell'ultima ora e anche la scelta della destinazione appunto fatta proprio poco prima di partire, quindi si farà un veloce monitoraggio delle proprie risorse finanziarie e da lì si sceglierà nei prossimi giorni dove andare, quanto spendere e questo per l'appunto. Allora io invito come sempre gli ascoltatori a chiamarci all'800 24 00 24, diteci che scelte avete fatto, metterete da parte i grattacapi economici per portare la famiglia fuori almeno per un paio di giorni, che meta avete scelto, che budget avete preventivato, capitale europea, agriturismo, città d'arte oppure niente di più che un ritrovo casalingo con i parenti perché appunto il budget è troppo ristretto. Il numero verde è sempre l'800 24 00 24, in alternativa scriveteci al 349 238 6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Le vostre scelte le metteremo a confronto con le scelte che sono state monitorate intanto dal motore di ricerca prezzi di Hotel Trivago Italia. Saluto Giulia Eremita, che è la country manager di questo motore di ricerca, di questa società. Eremita, buongiorno e grazie per essere con noi questa mattina. Buongiorno a voi. Abbiamo poi con noi anche Matteo Montebelli del Centro Studi Touring Club Italiano. Tor Montebelli, buongiorno. Buongiorno. E più tardi vi presenterò anche gli altri ospiti che continueranno a farci compagnia nel corso della trasmissione. Diamo un'occhiata però alla borsa, perché ovviamente questa non la possiamo perdere di vista, non è quella della spesa, è quella finanziaria. Dopo i cali molto accentuati di ieri, oggi l'Europa rimbalza di appena mezzo punto percentuale, vedo che non riesce a risollevarsi oltre questa misura. Abbiamo un più 0,60% esattamente a Londra, più 0,66% a Parigi, più 0,40% invece per la borsa tedesca, Milano più 0,50%. Milano ha avuto più incertezze stamattina perché era partita bene, poi ha annullato il suo guadagno e poi lo ha recuperato di nuovo, lo ha riannullato, adesso è più 0,51%. Il FTSE MIB sembra un po' più convinta, la borsa italiana della prima parte della mattinata, e adesso anche con più convinzione rispetto alle prime battute della seduta stanno rimbalzando i titoli bancari, che ancora una volta ieri erano finiti nel vortice delle vendite. Il miglior titolo è però Pirelli, guadagna il 2,68%, bene anche Tots con Luxottica, più 2,50% e più 1,46% rispettivamente, perché stamattina sono stati diffusi i dati sulle vendite di alcuni colossi del lusso europei, Elvemash e Barberis, per cui ne beneficiano anche gli altri titoli quotati sulle altre piazze. Il Banco Popolare più 2%, Banca più 1,83, Intesa più 1,55, Mediolanum più 1,50, Unicredit più 1,41, questi rimbalzi più vistosi nel settore bancario, ma non tutti i titoli bancari vanno bene, perché invece la Popolare di Milano è ancora in calo, meno 0,16%. Questa mattina il Messaggero avanza l'ipotesi che l'aumento di capitale che il gruppo deve fare sarà anche fino ad 1 miliardo di euro, quell'aumento di capitale che il gruppo teoricamente non vorrebbe fare, ma che invece la Banca d'Italia ha invitato esplicitamente a fare, e lo deve fare anche entro giugno. Peraltro Draghi ha chiaramente detto ai vertici della Popolare di Milano. Il peggior titolo è però STM, meno 1,80, Telecom meno 1,76, Saipem meno 1, Fondiaria meno 1, Enel Green Power meno 0,6%, sta rafforzandosi ancora l'euro sul dollaro, 1,42,74. Peraltro dopo Standard & Poor's negli Stati Uniti, guardiamo anche alla stagione delle trimestrali che è ripresa. Oggi rassegneranno i loro conti Bank of New York, Goldman Sachs, Intel, IBM, Johnson & Johnson e Yahoo. Lasciamo la borsa, andiamo subito al tema di questa mattina. Nel frattempo siamo riusciti anche a recuperare Fabio Cannavale, fondatore di volagratis.com, motore di ricerca per i voli low cost. Cannavale, buongiorno. Buongiorno a tutti. Eccoci qua, adesso la sentiamo perfettamente. Volevo andare subito da Trivago, Italia, Giulia Eremita, perché appunto voi siete stati tra i primi in questi giorni a divulgare qualche previsione pasquale. La prima cosa che avete potuto appurare è che per le vacanze di Pasqua intanto la Toscana risulta essere la regione più cliccata del web, con oltre il 13% delle ricerche della penisola, mentre Firenze è la seconda fra le città più prenotate, preceduta da Roma. Per cui gli spostamenti ci saranno secondo il vostro osservatorio, e naturalmente si cercheranno le belle città italiane. Che cos'altro può raccontarci? Che cosa succederà a Pasqua? Allora, sicuramente la Toscana è una delle regioni che va bene per ogni stagione, in particolare per questo periodo. Mi sentite bene? La sentiamo perfettamente, sì. Perché lei no? Perfetto. In questo periodo diciamo che offre una diversificazione territoriale molto forte ed è particolarmente scelta dal turismo internazionale. Firenze comunque viene sempre dopo Roma. Roma è la prima destinazione internazionale in Italia, quindi quella scelta in particolare da inglesi, tedeschi e francesi, e anche spagnoli in seconda battuta. Quello che abbiamo osservato, noi ogni mese facciamo un monitoraggio sull'andamento dei prezzi alberghieri online, avendo a confronto diciamo tutte le più grosse agenzie di prenotazioni online. Abbiamo rilevato un'apertura del mercato e quindi un aumento anche del prezzo medio per camera doppia notte nelle zone della Riviera, in particolare romagnola. Rimini è una delle città tra le 10 italiane più ricercate della stagione, ma anche comunque in previsione dell'estate, però sicuramente anche per Pasqua sarà una meta molto insomma molto tra quelle preferite insomma soprattutto dagli italiani. E in particolare abbiamo visto una ripresa per quanto riguarda invece la costa ligure, in particolare Genova. Una ripresa delle prenotazioni o una ripresa dei prezzi? Eremita, sì. Così. No, sì, una ripresa delle prenotazioni o dei prezzi? Sui prezzi prezzi mini, sui prezzi medi? No, lei mi diceva, abbiamo notato una ripresa anche sulla Riviera Ligure. Allora, siccome prima aveva fatto riferimento all'aumento dei prezzi sulla Riviera Romagnola, mi chiedevo, in Liguria... Al consumatore questo non fa piacere, però in realtà è un segno di buona salute, perché questo vuol dire che c'è una domanda che si sta riaprendo, una domanda che si sta rilanciando, e quindi quando in genere quando i prezzi aumentano è perché c'è più domanda, quindi si può fare sostanzialmente. Poi c'è sempre la sorpresa dell'ultimo minuto, quando magari non si riesce a vendere online a quel prezzo e quindi si deve abbassare improvvisamente le tariffe medie. Diciamo che è un mercato molto dinamico quello dell'online. La costa Ligure sicuramente rispetto all'anno scorso, dato che quest'anno la Pasqua cade in alta stagione, è una meta che sta riscoprendo, cioè ha avuto un aumento medio dei prezzi alberghieri del 20-30%. Alcune zone, per esempio, dove la disponibilità delle camere online non è così forte, per esempio le Cinque Terre o la Spezia, hanno avuto un aumento del 40% dei prezzi, proprio perché comunque ci sono poche disponibilità online. Ecco, ma devo essere monitoraggi? Sì, Eremita. Sì. No, mi chiedevo se è possibile anche individuare il budget medio che le famiglie mettono a disposizione appunto proprio per questa vacanza, sulla base anche delle città che avete individuato, avete monitorato appunto che comunque le strutture alberghiere ricettive stanno leggermente aumentando i prezzi, e il budget però delle famiglie, come dire, segue questa tendenza o comunque in virtù di questi aumenti il budget si limita? Guarda, la vacanza media minima per gli italiani in particolare è di 2-3 giorni, ma anche di un giorno. Per questa vacanza, abbiamo visto che comunque le date che vengono scelte sono proprio del weekend. Questo per esempio non succede per mercati un pochino che hanno, come dire, come un mercato inglese, dove in genere si fa una vacanza sempre di, si prenota online una settimana, 10 giorni. Nonostante i prezzi siano alti, comunque la famiglia italiana, ecco, questo non è che lo possiamo osservare in maniera periodica, dobbiamo fare comunque delle analisi a sé. Non è che comunque se i prezzi alzano la gente tende sempre comunque ad andare a risparmio. Quello che fa per esempio un comparaprezzi voli o un comparaprezzi hotel è cercare di dare tutti i prezzi possibili, in modo tale che uno poi decide che cosa vuole, se vuole una stella, 2 stelle, 3 stelle, se non vuole la colazione. Ci sono tante varietà e tante possibilità di risparmio. Sicuramente non è che i prezzi salgono e tutti sono disposti a spendere di più. Certo. Diciamo che comunque c'è un aumento generale della richiesta. Noi in particolare per Pasqua abbiamo fatto un'analisi proprio sulle ricerche di prezzo, sulle ricerche di hotel, sono aumentate e in particolare stanno aumentando in questa settimana proprio all'ultimo minuto. No, per poi non parlare di quello che succederà a Roma quando ci sarà la beatificazione di Giovanni Paolo II, ma questo è un capitolo a cui vogliamo dedicare Salvadanaio nella seconda parte. Eremita, le chiedo di avere un minutino di pazienza, perché so che Trivago ha monitorato anche quello che succederà invece a Londra in occasione del matrimonio fra William e Kate, che a quanto pare incuriosisce più della Tour Eiffel o della festa della regina. Le chiedo se ha qualche altro minuto di rendere sia disponibile anche per la seconda parte di Salvadanaio. Adesso devo già andare in pausa, poi con Fabio Cannavale appunto andremo a vedere invece quali voli sono stati scelti dagli italiani che si accingono ad andare in vacanza nei prossimi giorni, mentre con Touring Club faremo un viaggio nelle città d'arte e anche negli agriturismi per vedere quanto e come, secondo il monitoraggio invece di questa organizzazione, sono stati scelti dalle famiglie italiane. 800 24 0024 è il numero verde per il vostro contributo in diretta tra pochissimo. E allora abbiamo una puntata tipica di questa fase dell'anno, monitoriamo le tendenze delle famiglie italiane, dove andranno in vacanza a Pasqua, che tipo di mete saranno quelle predilette quest'anno, quanti giorni di vacanza soprattutto quest'anno le famiglie italiane potranno permettersi. Insomma, mi sembra che la tendenza generale, anche se ancora non abbiamo ascoltato tutti gli ospiti che questa mattina sono con noi, sarà quella di scegliere intanto proprio all'ultimo minuto, ma comunque non rinunciare ad un paio di giorni di riposo lontano da tutte le preoccupazioni. Fabio Cannavale, fondatore di volagratis.com, motore di ricerca per i voli low cost. E allora, il vostro motore di ricerca che scelte sta intermediando in questo momento? Ci racconti qualche curiosità? Gli italiani si arrangiano e partono comunque? Sì, gli italiani partono comunque e, come succede spesso nei periodi di crisi, sono predilette le vacanze in famiglia. Quindi le mete principali sono il sud Italia, sia per andare a aprire la stagione in agriturismo che per tornare a casa per molte persone del sud che vivono nel nord Italia. Una tendenza molto interessante di quest'anno, che si sta formando ogni anno, è che anche gli stranieri residenti in Italia vanno in vacanza, visto i costi molto bassi, e quindi Bucarest, per esempio, è da Roma la terza meta più gettonata. Questa tra l'altro è una tendenza che ha evidenziato anche l'analisi di lastminute.com. Budapest è proprio la meta rivelazione di quest'anno, con un più 53% delle preferenze rispetto allo scorso anno. Anche Praga va molto bene, ma questo anche perché Cannavale, vero, lei me lo raccontava prima, tutti gli immigrati che vivono in Italia tornano giustamente anche loro per le loro vacanze di Natale a trovare la famiglia. Esatto, noi vediamo molto forte appunto Bucarest, cioè Romania e Polonia, che erano delle mete dove prima si andava in pullman, adesso l'aereo costa meno e quindi ne approfittano delle vacanze di Pasqua anche le persone immigrate. Dicevo, le mete maggior gettonate in Europa invece rimangono Barcellona su tutte quest'anno, forse dovuta anche al fatto della Pasqua alta, la gente magari inizia a farsi un po' di mare, e Londra e Parigi. La Pasqua alta, certo, quest'anno permette un vero e proprio anticipo dell'estate, e poi comunque la Spagna e Barcellona sono anche località molto gettonate, soprattutto dai giovani che magari così si fanno anche due giorni di riposo dagli studi universitari. È possibile anche individuare un po' il profilo delle persone che scelgono determinate capitali europee, Cannavale, sulla base delle vostre analisi? Sì, allora, normalmente le persone che scelgono, diciamo, su internet sono di un'età tra i 30 e i 50 anni, però anche i più giovani sicuramente sono clienti. Un'altra meta che sta andando molto bene, soprattutto anche adesso last minute visto il clima, per i giovani è Ibiza, dove ci sono molti voli già pronti in questo periodo, e quindi ci sono, tra l'altro ci sono ancora degli ottimi prezzi. Diciamo che sono mediamente delle, come dire, mete intramontabili, degli evergreen, mentre abbiamo proprio le novità di Budapest e Praga quest'anno. Che per Pasqua il discorso di Ibiza è un po' una novità, perché comunque non sempre ci sono, no, c'erano dei voli diretti, adesso ci sono diverse compagnie che li fanno, normalmente i voli erano prima meta Ibiza che partiva a maggio-giugno. E come prezzi, allora, chi ha prenotato un po' ad anticipo, che ci sono state comunque tantissime prenotazioni, è riuscito ad andare in tutte le capitali europee con meno di 100 euro. Adesso ci sono ancora alcune destinazioni che sono sotto i 100 euro, ovviamente le mette più gettonate invece hanno superato i 100 euro, siamo sui 150-200 euro, quindi sempre prezzi abbordabili, budget gestibile. Prima si prenota, meno si paga. Certo, budget gestibili, poi naturalmente se siamo da soli è chiaro che quando si deve mettere insieme tutta la famiglia e permetterle appunto un viaggio decoroso, qua le cose cambiano. Detto questo, vado a leggervi già qualche messaggio al 349-238-6666. Mario, fortunatissimo, ci racconta che va alle Maldive, mentre all'indirizzo salvadanaio @radio24.it un mio compaesano, un anconetano, Davide, ci racconta, David, che va a Sulmona, probabilmente con la fidanzata, voglio sperare, a scegliere i confetti per il matrimonio. Poi ci incontriamo, ci racconta, con degli amici, una griglia, un prato, un po' di carne da mangiare, un bel gelato ed eccoci, poca spesa, massimo divertimento. Grazie per la bella trasmissione, grazie anche a lei, Davide, appunto per il bel messaggio. Scelte molto differenti naturalmente, però insomma qua Davide c'è anche un obiettivo diverso, che è il matrimonio quest'anno, quindi già immagino che le porterà via molte risorse finanziarie. Intanto saluto anche il quarto ospite che ci ha raggiunto questa mattina, sono contenta di averlo oggi, per una volta tanto parliamo un po' meno di problemi e di, come dire, emergenze planetarie. Roberto Corbella, presidente di ASTOI, l'associazione dei tour operator italiani. Corbella, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Tour operator sono tranquilli quest'anno per questa Pasqua? Sono al lavoro, sono al lavoro sperando che venga presto un bel sole e che incoraggi tutti ad andare in vacanza e di partire con entusiasmo. Che tipo di richiesta stanno facendo le famiglie italiane che si rivolgono al tour operator tradizionale? Allora, la Pasqua normalmente è una vacanza di poche giornate e quindi non consente grandi viaggi per la maggior parte degli utenti, quindi ho già sentito prima una serie di cose che assolutamente condivido, per esempio è un classico periodo per la partenza degli agriturismi, sicuramente è anche un'opportunità per quelle che sono le vacanze cosiddette benessere, le vacanze termali che si vendono bene nel nostro paese, ci sono molte località. Nelle città, sia quelle italiane che quelle europee, ne sono state già menzionate alcune, Barcellona sicuramente, Praga, Berlino, accanto alle nostre, Roma, Firenze, Venezia, e anche poi alcuni che fanno gli itinerari, ci sono gli itinerari enogastronomici, regioni tipo la Toscana, c'è una Puglia che è una regione che sta segnando in questi anni un continuo trend in positivo e sta crescendo, quindi molti, proprio perché hanno poche giornate a disposizione, rimangono in un ambito nazionale o comunque europeo o comunque limitrofo. altri invece che hanno più disponibilità di tempo si allontanano. C'è una ripresa del Mar Rosso che si era fermato per sì. tutti i noti avvenimenti e sta gradualmente riprendendo, ci aspettiamo di tornare alla normalità per la stagione estiva, però è tra l'altro oggi un'opportunità, un rapporto costo benefici assolutamente vincenti e le persone che vanno tornano molto entusiaste. No, tra l'altro io ho avuto anche modo di parlare con un po' di amici in questi giorni che stanno addirittura pensando drasticamente di annullare, qui stiamo parlando però del periodo estivo, le vacanze in Sicilia perché stanno temendo tutti questi sbarchi a Lampedusa, quindi la possibilità perché tutti questi immigrati che arrivino circolino liberamente in tutta la Sicilia con grande preoccupazione, qualche ritorsione di Gheddafi, insomma io vorrei anche un attimino sgombrare il campo anche da tutti questi timori che saranno anche per carità legittimi, poi ognuno fa le scelte che vuole, però adesso non esageriamo, diamo anche insomma uno sguardo di tranquillità verso una delle nostre regioni più belle, poi magari anche su questo sento i nostri ospiti. Non ho ancora sentito Matteo Montebelli del Centro Studi Touring Club che ha diramato proprio in questi giorni un'altra previsione molto articolata su come andrà questa parentesi pasquale, però è come dire un work in progress come si dice in inglese, Montebelli, perché so che gli operatori che state sentendo continuano a confermarvi il fatto che molti viaggiatori, molte famiglie sceglieranno proprio all'ultimo momento. Esatto, diciamo che se dovessimo identificare, dare una definizione di questa Pasqua, noi diamo una definizione di cauto ottimismo, nel senso che, come si diceva prima, sicuramente le persone andranno in vacanza, resta il fatto, ed è un dato che si sta consolidando sempre più negli anni, che le persone scelgono molto a ridosso. Alcuni operatori che abbiamo sentito nei giorni scorsi ci dicevano che questa per loro è la settimana decisiva per raccogliere non solo le ultime prenotazioni, ma probabilmente anche una quantità notevole di prenotazioni. Come Centro Studi, insieme ad agriturismo.it, abbiamo fatto una survey sugli agriturismi, perché gli agriturismi sono senz'altro una delle diciamo così location destinazioni preferite per il turismo pasquale, dal quale emerge che diciamo così la buona parte dei soggetti che abbiamo interpellato ha ricevuto prenotazioni, quindi c'è movimento di richieste, di domande, eccetera. In realtà quando si fa un confronto col 2010, la maggioranza effettivamente dice che siamo di fronte a una sostanziale stabilità. Mm-hmm. Ecco. Però tre agriturismi su 10 comunque mettono in evidenza che c'è stato un peggioramento. Quindi, come dire, c'è movimento, però non siamo di fronte a una vera e propria ripresa. E gli agriturismi confermano anche qualche difficoltà in più nei confronti del mercato straniero, quindi le loro previsioni sulla Pasqua sono leggermente più pessimistiche per gli stranieri rispetto agli italiani. Quindi l'agriturismo diciamo non riesce, come faranno le strutture ricettive della costiera, della costa romagnola, ad alzare i prezzi, dovranno mantenerli inalterati. Allora sui prezzi noi abbiamo verificato un costo medio di circa 80 euro, che vuol dire camera doppia con prima colazione. Chiaramente è un costo medio, nel senso che esistono casi di agriturismi molto più economici o agriturismi in cui il lusso fa lievitare il prezzo. Quindi diciamo che l'agriturismo è in una situazione come dire di stabilità, sostanziale stabilità rispetto all'anno scorso. Per quanto riguarda invece le città d'arte, ecco, questo forse è il segmento che dovrebbe riservare una sorpresa positiva, nel senso che da nostre ricerche condotte a inizio del 2011 emergeva come in forte ripresa la destinazione città d'arte per le vacanze primaverili degli italiani. Facendo un focus proprio in questi giorni, effettivamente è emerso che come dire, Firenze, Venezia, Pisa dovrebbero essere destinazioni città d'arte che dovrebbero riempire a Pasqua. Ecco, un po' meno Napoli per il noto Napoli problema. Per scontare ancora questo problema dei rifiuti, quindi probabilmente l'aspetto reale, cioè della presenza di rifiuti, anche l'aspetto un po' d'immagine, perché ormai questo problema lo sentiamo, lo leggiamo sui giornali da tanto, può aver scoraggiato molti, mentre per esempio la costiera amalfitana sembra che andrà bene, quindi diciamo così, è proprio un problema non legato alla campagna in generale, ma molto più localizzato. Circoscritto a Napoli. C'è un ascoltatore che ci scrive: io vado ad Ischia, dal mio amore, bene, anche innamorato, siamo contenti, e dalle terme, e alle terme più belle d'Italia, anzi del mondo. Un'altra ascoltatrice, Sandra da Roma, ci scrive: ho scelto la Toscana, Santuario Laverna, Arezzo, 2 giorni, pensione completa per 2 adulti con bambino, 200 euro, economico, bello, suggestivo e riposante. Quindi stamattina cerchiamo anche di dare delle idee a chi ancora una scelta non l'ha fatta ma vorrà in ogni caso partire. Mi rendo conto anche che è una puntata che disturba un po' coloro che invece non potranno spostarsi da casa per i noti problemi di cui abbiamo parlato all'inizio della trasmissione. Salutiamo con affetto Roberto da Bergamo, che dice: sono un artigiano, per come va il lavoro altro che vacanze a Pasqua, neanche in estate. Però Roberto, anche se per qualcuno può sembrare un po' frustrante l'argomento del cui parliamo, tenga conto quanto vale questo settore per la nostra economia, quante persone ci lavorano, per cui quante persone magari proprio per le difficoltà degli ultimi anni si sono ritrovate nella sua stessa condizione. Il nostro paese lo dobbiamo comunque sponsorizzare al meglio, quindi anche se facendo dei sacrifici qualche famiglia magari si sposta, noi siamo contenti che lo possa fare. Abbiamo poi 2 ascoltatori che stanno aspettando da un po', Agnese da Roma e Angelo dalla provincia di Trapani. Chiedo loro un altro attimo di pazienza per sentire cosa sta succedendo sulle strade italiane, e poi li ascoltiamo molto volentieri. A tra poco. Allora, riprendiamo Salvadanaio, l'ultima parte, tanto ricca questa puntata di ospiti quest'oggi. Abbiamo voluto fare un monitoraggio il più esaustivo, il più completo possibile per capire come saranno queste vacanze di Pasqua, quali saranno gli spostamenti prediletti da parte delle famiglie che potranno permettersi qualche giorno di vacanza. Tra l'altro domani Federalberghi diffonderà i risultati di un'indagine sui consumi turistici degli italiani a Pasqua, conclusa questa indagine proprio in queste ore, per testare fino all'ultimo minuto il polso del mercato. Ma Federalberghi preannuncia già che può ritenersi, si può già definire un mercato in affanno, quindi domani avremo altre indicazioni interessanti. Agnese da Roma, buongiorno. Buongiorno, salve. Ci dica. Dunque, io avevo ricevuto un invito da un'amica in Sardegna, mi sembrava una bellissima opportunità per passare qualche giorno al mare da Pasqua, poi non vedevo la mia amica da tanto, però ho dovuto rinunciare a causa dell'esagerato biglietto del traghetto, che insomma immagino la possibilità di andare in Sardegna con 900 euro, perché meno che sono una cifra spropositata, in genere ci andavo con 400-500 euro. Mm-hmm. E quindi Praticamente raddoppiato, sì. Sì, per poi viaggiare, non so se lei ha mai preso un traghetto per Cagliari, su degli effettivi carri bestiame, quindi insomma la situazione. Poi a quel punto ho detto: beh, dirottiamo questi 4 giorni. Un volo economico, Agnese, non ce l'ha fatta a trovarlo? Oppure un volo economico, ma quando si va a prenotare l'ultima settimana, trovare un volo economico è impossibile. Quindi no, quello è vero, però io credo che qualcosa sotto i 900 euro magari può trovarli, proprio con il meccanismo della last minute. Aspetti lì che vado subito da Fabio Cannavale, che sono già sicura. Adesso non so se ne ha l'opportunità, ma magari si è già messo nel suo motore di ricerca a trovare un'occasione per Agnese. Che cosa le dice? Sicuramente, adesso non so quante persone si tratta, ci sono dei voli per andare in Sardegna intorno ai 100 euro. E tra l'altro noi abbiamo appena lanciato anche un nuovo sito che si chiama Traghetti Gratis, per cercare di trovare anche sui traghetti le migliori tariffe. Vogliamo ricordare a chi non lo sa, Cannavale, magari poi ci ritorno anche con Corbella di Astoi su questo argomento, del quale per la verità stiamo parlando già da un bel po' di mesi, almeno nelle volte in cui ci occupiamo di turismo nella nostra trasmissione. Come mai il prezzo del traghetto è volato a questo livello così irragionevole, Cannavale? Sicuramente i prezzi, come si è detto fino adesso, dipendono tantissimo dalla domanda. Quindi dalla richiesta dei clienti. Quindi evidentemente c'è stato quest'anno, essendo una Pasqua un po' alta, tanta gente che ha iniziato ad andare in Sardegna. La Sardegna negli ultimi anni ha allungato assolutamente la stagione, questo diciamo da un punto di vista economico è molto buono, cioè l'anno scorso a maggio-giugno c'erano già gente, molti a Berlino e a Sardegna pieni, quindi sono riusciti a fare questo lavoro che le Baleari hanno fatto da tantissimi anni, e quindi probabilmente con la Pasqua alta, confrontando l'ultimo aspetto, è difficile. Devo dire che il motivo per cui abbiamo fatto traghetti gratis non è facile. No, perché mi chiedo quante compagnie vadano in Sardegna, perché mi risultava che tutta questa situazione fosse determinata anche dalla crisi di Tirrenia. Sicuramente c'è la crisi di Tirrenia, quindi le altre se ne approfittano. Non è facile capire bene le tariffe sono abbastanza complesse con sconti civette e tutto, quindi insomma cerchiamo, noi stiamo facendo il nostro lavoro perché cerchiamo di cercare clienti le tariffe, spero che la cosa possa funzionare. Carnevale la perdo, allora insomma ad Agnese diamo questa indicazione prima di perdere speranze di farsi questa bella vacanza con la sua amica, vada a dare un'occhiata su traghetti.it e poi ci racconti soprattutto che offerta ha trovato. Roberto Corbella, la questione del traghetto, insomma il costo notevole per andare in Sardegna limiterà le scelte delle famiglie italiane, adesso non dico per Pasqua perché magari sarà, come dire, un'opzione un po' meno praticata perché i giorni sono pochi, ma da qui all'estate questo è un problema che i tour operator hanno sollevato? Assolutamente sì, rischia di penalizzare la destinazione Sardegna, anche se per fortuna molti dei nostri portano i turisti con un trasporto aereo e quindi non sono in sofferenza per questo, ma proprio i nostri associati che operano principalmente la Sardegna si sono riuniti per dibattere questo tema perché l'aumento dei prezzi è a nostro avviso sproporzionato e non giustificato. Ma infatti, cioè veramente che costa il triplo di un volo mi sembra assurdo. Allora, è vero che c'è stato per tutti un aumento del carburante significativo, che sappiamo a che livelli è arrivato, ma vero soprattutto secondo me che molti vettori stanno attraversando dei momenti complicati, quindi qualche volta cercano di recuperare in maniera un po' sproporzionata e inadeguata. Questo non credo che sia una politica giusta, non credo che paghi nel lungo termine e sarebbe anche auspicabile che le autorità, per prime quelle della Sardegna, si interessino di questo tema perché rischiano di vedere la loro meta, che merita molto ma penalizzata, perché già non è una delle mete più competitive. Qualche volta si dice perché gli italiani vanno all'estero. Gli italiani vanno all'estero non perché l'Italia non sia bella o non abbia delle belle cose da offrire, ma perché spesso i pacchetti che noi siamo in grado di offrire all'estero sono altamente competitivi rispetto a molte delle nostre mete. Corbella, un'ultima considerazione, poi ritorno da Giulia Oremita che ho fatto aspettare per tutto questo tempo, ma questa chicca di Londra la voglio raccontare. Secondo lei la questione dei continui sbarchi, che è una questione alla quale siamo abituati da anni ormai, ma quest'anno si sono molto intensificati nell'ultimo periodo, penalizzerà la Sicilia oltremodo secondo lei, anche perché abbiamo tutta questa difficoltà di gestione di questo fenomeno, questo conflitto con l'Europa? Perché io veramente ho sentito questa cosa assurda secondo la quale ho delle amiche che hanno rinunciato ad un viaggio in Sicilia preventivato per la prossima estate perché hanno paura di questa situazione. A me sembra assurdo, voi che cosa ne pensate? Assolutamente condivido la sua posizione, cioè credo che spesso ci lasciamo influenzare da delle notizie che vengono date. È chiaro che la notizia è la parte clamorosa, quindi lo sbarco delle migliaia di persone, però intanto molte di queste persone già sono addirittura uscite dal nostro paese o si sono spostate in altre parti, quindi personalmente andrei assolutamente con tranquillità a fare le mie vacanze in Sicilia, tranquillo di non avere nessuno di questi problemi. Credo che dobbiamo anzi fare proprio un'opera di informazione, capire che quello che emerge in maniera clamorosa non significa che rappresenta, come dire, la dimensione globale, parliamo di una goccia nel mare, quindi queste persone se un'isola come Lampedusa possono colpirla, soprattutto se rimangono lì, non sono certamente un problema per una dimensione come la Sicilia o per tutto il Sud Italia, quindi invitiamo tutti ad andare tranquillamente in vacanze in Sud Italia, non sarà questo il problema che li deve preoccupare. Allora andiamo ad Angelo da Trapani, che invece ha avuto un altro problema volendosi godere la sua vacanza, ha fatto la prenotazione della macchina ma in aeroporto ha avuto la brutta sorpresa. Angelo, buongiorno. Sì, buongiorno. Cosa le è successo? Sì, infatti una vacanza programmata da tanto, da febbraio addirittura, e ho prenotato il volo Ryanair e l'automobile della Hertz. Però mi scusi, questa non stiamo parlando della vacanza scelta per il periodo pasquale? Sì, sì, questa è una vacanza, sono qui in Sicilia nonostante la Hertz. Ah, ecco. Sì. Niente, arrivato all'aeroporto, sono andato a ritirare la macchina, pagata in anticipo, io ho già ricevuto la fattura della Hertz, e la macchina non è stata consegnata perché io non avevo con me la carta di credito con cui avevo prenotato. No, però, questa tra l'altro, Angelo, siccome anche a me 20 anni fa è capitata la stessa cosa, ero in Spagna con mia cugina, ma io avevo molti anni in meno e non avevo la carta di credito, effettivamente abbiamo dovuto dare un sacco di anticipo in contanti per poter prendere la macchina, ma lei l'aveva già pagata, mi sta dicendo? Sì, sì, già pagata, io ho la fattura della Hertz, su cui non c'era scritto che dovevo portare con me la carta di credito con cui avevo prenotato. Dovevo altro, il banco, ma la carta di credito. credito, uh-huh. E poi a casa c'è la carta di credito con cui spesso faccio le compere su... Comunque, guardi Angelo, stiamo sentendo difficoltà, questa è una disavventura che può capitare, adesso magari non tanto attinente al tema di stamattina perché stiamo cercando di individuare meta e budget, però magari le rispondiamo in privato per capire se il comportamento di questa società di noleggio auto è legittimo, lecito, se quello che ha fatto appunto è corretto, non avendo lei potuto dare la garanzia della carta di credito, ma da quello che capisco appunto pagato largamente in anticipo. Giulia Eremita, rapidamente, Trivago Italia, allora quanti italiani andranno a Londra a vedere le nozze di Kate William? A livello di numeri non l'abbiamo, però siccome l'avete messo in evidenza nel vostro... Abbiamo visto che nelle ultime settimane c'è un aumento molto forte per Londra e rispetto all'anno scorso, quindi dello stesso periodo, e che supera addirittura Parigi, che normalmente è la seconda destinazione dopo Roma per gli italiani di questa stagione. Londra in questo momento ha una disponibilità del 40% delle camere, quindi non altissima, e un prezzo per doppia notte molto alto di 185 euro di media, ovviamente una media, possono essere più bassi, come possono essere molto più alti. Sicuramente l'evento trainante sono le nozze reali, che hanno portato insomma la città ad essere in festa, e questa è una cosa che molto spesso è trainante, quindi anche se uno poi va o non va, l'occhio ce lo butta per vedere insomma quali sono i prezzi, le attrazioni, gli eventi paralleli poi al 29 aprile, quando si svolgeranno le nozze fatiche. Infatti, e per parlare di altri eventi straordinari, grazie a Giulia Eremita, 30 secondi di tempo a Matteo Montebelli del Touring Club Italiano, perché voi avete monitorato anche quello che accadrà a Roma il 1° maggio in concomitanza della santificazione di Papa Wojtyła. Esatto, nel senso che probabilmente Roma non farà il tutto esaurito a Pasqua, ma come dire, ci sono molte più attese invece di tutto esaurito, con dei prezzi anche estremamente rincarati, proprio per il weekend successivo in occasione della santificazione. Quindi diciamo che in questo momento Roma può avere due picchi di grossa stagionalità legata a Pasqua e infatti, al 1° maggio. E sappiamo però anche quello che è successo sui prezzi degli alberghi, perché forse qualcuno ne ha approfittato esageratamente. Grazie a tutti per essere stati con noi, Giulia Eremita di Trivago Italia, Fabio Cannavale di volagratis.com, Matteo Montebelli il Touring Club Italiano, Roberto Corbella, presidente della STOI, Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, Pietro Lacorti in assistenza tecnica. Non ho più ringraziamenti da fare, ci sentiamo domani, buona giornata a tutti.